speaking Super Mushroom. When I think you lady baby boy now, I understand my arm. I pretend I crown my lady baby boy down. I pretend my crown. When I'm just a little baby, baby boy now. Così ho rapito uno spettro fatto di questo fumetto. Super Mushroom, come avrebbe scritto pazienza, pure con la C. Per questo sono in assenza cronica di te. Mala cronica. Stato di overdose sconvolta in bassezza. Mala cronica, ma sempre a testa alta, con un flow che ti viene dal terzo cuore, dalla testa. Nell'oblio trovai un cuore che batteva di emozioni e pensieri, che tu sei rena di ieri passata, emozione svanita nei meandri dei miei pensieri di ieri. Emozione svanita nei meandri dei miei pensieri di ieri. Emozione svanita. Adios.